Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Beh, una volta tanto iniziamo con una borsa che sta salendo come non faceva da intere settimane, e i rialzi a questo punto sono del 6% a Milano, il 6,40% sull'S&P MIB, il 5,5% di rialzo sul MIBTEL, molto forte anche Parigi, più 5,5%, Francoforte più 5,3%, Londra più 4,3%, e una mano grossa la sta dando da circa un'ora e mezza l'America, più 4,80% l'indice Dow Jones in questo momento, e più 5,88% il Nasdaq, più 5,5% l'indice Standard & Poor's. Che cosa è successo? Stanno trainando tutti i rialzi i titoli bancari, tra l'altro il Dow Jones si riporta a 6.800 punti, quindi ancora sotto quota 7.000, lo Standard & Poor's si riporta invece sopra i 700 punti, a 713. Dicevo, rialzi dei titoli bancari, e a Milano in effetti è fortissima la crescita per un titolo come Intesa San Paolo, più 15,3%, torna a 1,06 euro, e Unicredito più 12,8%, riconquista gli 80 centesimi di euro. Sono rialzi, insomma, c'era da investire oggi in borsa, avere avuto la sfera di cristallo. Prysmian anch'essa molto forte, più 13%, Luxottica più 9,2%, Fiat più 8,80%, Ubibanca più 8,3%, Eni più 8,3%, Popolare di Milano più 7,5%, Mondadori più 7,2%, Steamark Electronics più 6,9%, Espresso e Alleanza più 5,5% come Enel, il 4,5% lo guadagna Bulgari, il 4,2% sia Fondiaria che Atlantia, mentre anche Telecom guadagna un 3,6%, la Generali 3,1%, il Banco Popolare, e ne parleremo ampiamente perché oggi il Banco Popolare è stata la prima banca a utilizzare i Tremonti Bond, ne parleremo anche in apertura e poi avremo un approfondimento su questo. Forte a questo proposito anche Banca Italease, che è arrivata a guadagnare più dell'11%. In assoluto il titolo più forte è Tiscali, ma non riesce a fare prezzo, adesso l'ha fatto, più 53,4% a 23 centesimi di euro. Safilo più 24%, AXA più 18%, le Bastoggi più 17% e le CIR più 15,6%. Che cosa è successo? Dicevamo del settore bancario che sta trascinando tutti i titoli, ma non solo, vedete che tutto il mercato che sta crescendo, anche gli energetici, c'è un petrolio di nuovo alto, ma non può essere solo questa la spiegazione. Diciamo che, lo vedremo più avanti, vi sono chiaramente anche delle ricoperture. Fiat guadagna l'8,80%, torna sopra i 4 euro per azione, ma non abbiamo letto notizie. Certo, c'è un'intervista del numero uno Marchionne su Automotive, però non ci sono notizie fondamentali tali da giustificare il più 8,8%, e questo sta comunque a sottolineare una borsa molto molto volatile, come si dice in gergo. Però a proposito di volatili, ascoltiamo un suono che da un po' che non sentivamo, sia il nostro antigufo per eccellenza, vista la giornata di borsa. Vai col gallo. E allora, una volta tanto apriamo con il gallo, vista l'ottima giornata di borsa e il fatto che tutti i titoli salgano. Di negativo c'è solo in sostanza Snam Rete Gas, che però era uno dei pochi titoli a crescere, è stato uno dei pochi titoli a crescere nelle ultime sedute, più 1,5%, meno 1,5%, come un punto e mezzo lo perde in pregilo, l'1% lo perde anche A2A e lo 0,80 Mediolanum. Euro a 1,2763, quindi in rafforzamento, così come l'euro si rafforza anche sulla sterlina, 92 pence per un euro. Il numero per i vostri sms resta 349-238-6666, parleremo anche in apertura dei Tremonti Bond, ma soprattutto del dato oggi sulla disoccupazione. Infatti, se i mercati sono tutti ai massimi della seduta, Dati più preoccupanti arrivano dall'economia reale. Però partiamo con il petrolio. A New York ha accelerato, è andato sopra i 48 dollari al barile. Si scommette, infatti, si dà per certo il prossimo taglio alla produzione che verrà deciso dai paesi OPEC a Vienna il 15 marzo, e con una sensibilità che già altre volte ci ha lasciato perplessi, la benzina è tornata a salire. Si dice sempre che sono futures, però quando il prezzo del petrolio cala, la benzina ci mette qualche mese a seguirlo, qualche settimana. Quando il prezzo del petrolio sale, subito la benzina torna a 1,20 euro quasi al litro, 1,198 euro per la GIP. Ma se il prezzo del petrolio resterà sui livelli attuali sui mercati internazionali, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Gas, l'Anigas, prevede una riduzione del prezzo del gas al netto delle tasse di circa il 27%, e quindi i prezzi, secondo gli industriali del gas, torneranno al livello dei primi 3 mesi del 2001. Andiamo avanti. Ci chiedete già dei Tremonti Bond. Ne ha chiesto 1,4 miliardi il Banco Popolare. Questi, i Tremonti Bond, sono obbligazioni emesse dalle banche, cioè la banca richiede un prestito attraverso l'emissione di un'obbligazione e viene sottoscritto dal Tesoro con rendimenti, però la banca deve offrire interessi tra il 7,5% e l'8,5%. Nessuna penale per il rimborso anticipato, alcuni vincoli invece per chi li chiede, ma soprattutto la disponibilità complessiva è tra i 10 e i 12 miliardi di euro. E mentre continua a calare anche l'Euribor all'1,69%, oggi sono arrivate dichiarazioni contrastanti dalla Banca Centrale Europea e anche dal Fondo Monetario Internazionale. Le leggiamo in ordine, nel senso che da un lato uno dei componenti del Consiglio della Banca Centrale Europea, l'italiano Lorenzo Binismaghi, oggi in un'intervista a un quotidiano tedesco, il Börsen Zeitung, ha detto che la Banca Centrale Europea non esiterà a tagliare i tassi anche portandoli a zero se l'economia dell'area euro sarà minacciata dalla deflazione. Mentre un altro membro dello stesso consiglio della BCE, ossia Axel Weber, ha detto che non vede nessun motivo per portare in futuro i tassi sotto la soglia dell'1%. Ricordo che giovedì scorso la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi, il costo del denaro, portandolo all'1,5%, il livello più basso da quando esiste l'euro. E se il numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, ha oggi lanciato un appello da Washington per cambiare drasticamente le regole di vigilanza dei mercati finanziari in modo che non si ripetano più i boom e i crolli che hanno caratterizzato i mercati in questi anni, lo stesso Bernanke ha aggiunto che la Federal Reserve e le altre autorità americane garantiranno alle banche il capitale in maniera sufficiente, quindi non vi sarà nessuna crisi di liquidità per le banche. Nel frattempo da Citigroup arrivano notizie incoraggianti. Allora sentiamo intanto Ben Bernanke, il numero uno della Banca Centrale Americana, essere molto esplicito sul ruolo che la Federal Reserve avrà nei confronti del sistema bancario americano. Il mondo sta soffrendo la peggiore crisi finanziaria dagli anni 30. Una crisi che ha portato a un forte rallentamento dell'economia globale. Le cause che hanno scatenato la crisi sono ancora in discussione. Credo però che sia impossibile capire la crisi senza fare riferimento agli squilibri a cui abbiamo assistito a livello mondiale, nel commercio e nel flusso di capitali, a partire dalla seconda metà degli anni 90. Gli squilibri globali sono da imputare tanto agli Stati Uniti quanto ai suoi partner commerciali. E sebbene questo tema sia stato al centro di tante conferenze internazionali, non si è fatto abbastanza per ridurre questi squilibri. Nel breve termine, i governi di tutto il mondo devono continuare a intraprendere azioni coordinate per ristabilire il funzionamento dei mercati finanziari e il flusso del credito. Fino a che non stabilizziamo il sistema finanziario, una ripresa economica sostenuta sarà irraggiungibile. È per questo che la Federal Reserve e le autorità americane faranno tutto il possibile affinché le banche abbiano sufficiente capitale per operare al meglio, anche in un clima economico molto difficile. In aggiunta a questo, credo che non sia mai troppo presto per le autorità cominciare a pensare a quali riforme apportare all'architettura finanziaria per cercare di evitare che altre crisi come quella attuale si ripetano in futuro. That could help prevent similar crises from developing in the future. Così il numero della Federal Reserve, vedo che molti di voi sottolineano la necessità del gallo, l'abbiamo appena usato il gallo, ma soprattutto è vero, non ci sono notizie migliori rispetto a ieri o significativamente migliori da giustificare questo fortissimo rialzo di tutte le borse, più 6,26% adesso Milano. È vero che probabilmente c'è anche un rimbalzo tecnico da ipervenduto, ossia quando si va sotto certi livelli poi si ricopre. Detto ciò, diciamo, il segno è opposto ma la qualità è identica. Siamo di fronte a borse nervosissime, molto volatili, non ha molto senso buttare giù un titolo del 7% per poi farlo salire il giorno dopo di una percentuale analoga, anche se l'effetto è chiaramente dimezzato. Non ha molto senso, ma tant'è, così è la borsa in questi giorni. Noi andiamo avanti invece con le notizie che hanno comunque avuto un loro impatto, perché da Citigroup, e questa è una notizia, perché Citigroup è il colosso bancario americano che è sempre lì per saltare per aria, però, e tra l'altro la capitalizzazione è scesa da 255 miliardi nel 2007 a 9 miliardi di dollari, le perdite di Citigroup hanno raggiunto gli 80 miliardi di dollari, è soprannominata Wall Street Zombie Bank, la banca che come uno zombie si muove, ma sarebbe quasi un morto vivente, e ha ricevuto dallo Stato americano, per non sbagliarsi, 45 miliardi di aiuti diretti e 250 miliardi comprese le garanzie. Però, la buona notizia è questa, il nuovo numero uno della banca, visto che Chuck Prince se n'è andato milionario, miliardario quasi, ma il nuovo numero della banca, che è Vikram Pandit, ha diffuso i dati del primo trimestre, e la cosa interessante è che li ha definiti molto incoraggianti. Siamo in attivo, ha aggiunto Pandit, nei primi due mesi del 2009, e questi dati per la banca sono i migliori dal terzo trimestre del 2007, cioè la prima volta da quando è scoppiata sta crisi, ossia l'estate del 2007, che Citigroup vede dei dati in crescita a questo livello, e sicuramente questo ha dato anche un effetto positivo a tutte le borse. Certo, le difficoltà in America restano. A Detroit si vendono le case per quasi un dollaro, circa 40.000 case sono vuote a Motor City, ossia la città dove ci sono gli stabilimenti della General Motors, e si compra una casa con 7.000 dollari. Chi li avesse e non sapesse che fare, si comprasse una casa a Detroit. Non so se il luogo sia così a meno, Motor City, però un dollaro anche per una casa di quasi 80 metri quadrati con due stanze da letto. In Gran Bretagna poi si arriva a mettere in vendita un intero villaggio comprensivo di castello, club di cricket, un tipico villaggio inglese, Lincoln Holt nel Hampshire, e a venderlo è una fondazione, chiede, ci sono tra l'altro 22 case e quant'altro, 600 ettari di terreno, 180 ettari di bosco, chiede 25 milioni di sterline, non è pochissimo, però insomma si compra un villaggio in questo modo. Vabbè, andiamo alle notizie serie. Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, invece, sempre sulla crisi, ha detto che la crescita a livello mondiale sarà negativa e sotto lo zero in tutto il 2009, che vuol dire che il Fondo Monetario rivedrà le stime. Le ultime stime diffuse a gennaio, non tanto tempo fa, prevedevano comunque una crescita dello 0,5% per quest'anno. A livello mondiale invece ormai c'è il segno meno. L'incertezza resta elevata anche per il 2010 in Europa, questo è quanto si è appreso dal vertice oggi dei ministri economico-finanziari a Bruxelles, il vertice Ecofin, e tra l'altro l'Ecofin ha dato via libera al raddoppio delle risorse a disposizione del Fondo Monetario Internazionale, portandolo da 250 a 500 miliardi di dollari per aiutare e aumentare l'aiuto ai paesi più in difficoltà. Via libera al programma di stabilità italiano, e così come dall'Ecofin, che si è conclusa da poco, la conferenza stampa si è conclusa da poco, il ministro Tremonti ha confermato che l'Unione Europea ha dato via libera alla trasformazione da temporanea a permanente dell'IVA agevolata per l'edilizia, cioè al 10%, che altrimenti sarebbe scaduta nel 2010. Quindi una buona notizia per il settore dell'edilizia: l'IVA resta al 10% in maniera permanente. Ascoltiamo Tremonti. Il regime italiano era speciale, siamo riusciti a ottenere quel regime da speciale e temporaneo in speciale e permanente. Considerando gli obiettivi che abbiamo per la politica edilizia, ci è sembrato di un qualche significato. Così il ministro Tremonti. Altre notizie, da qui partiamo, della giornata, appunto giornata eccezionale per le borse oggi, ma riguarda il mercato del lavoro, questa volta italiano. Perché? Perché se da un lato, come i nostri GR ricordavano oggi nel rapporto Alma Laurea, viene fuori come anche sulle lauree più prestigiose, ingegneria, economia e commercio, la crisi morda, ma si conferma comunque che è un po' più facile trovare lavoro per i laureati rispetto ai non laureati. Oggi il dato, e ne ha parlato anche il ministro Sacconi, il dato è preoccupante sul fronte dell'occupazione. Perché? Perché tra gennaio e febbraio sono stati 370.500 i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, e questo però, voglio dire, di per sé stesso non dice niente. Quello che è interessante ed è importante è il confronto rispetto a gennaio e febbraio del 2008, quindi il tendenziale, e perché questo ci dà la dinamica. Ebbene, rispetto a un anno prima, a restare senza lavoro sono state 117.000 persone in più. E quindi rispetto al gennaio e febbraio 2008, quando quindi a spanne si erano creati 260.000 senza lavoro, con un aumento del 41%. Preoccupato anche il ministro Sacconi, che ha detto che il governo è pronto ad affrontare l'emergenza occupazionale. Preoccupata e molto allarmata la CGIL, ma anche la CISL. La CISL in Lombardia, l'ho detto il segretario regionale Gigi Petteni, in Lombardia sarebbero finite le risorse per gli ammortizzatori sociali, mentre a livello nazionale per la CGIL Susanna Camusso ha detto: attenzione, questi dati fanno paura, occorre subito un tavolo per l'occupazione. E ricordo che Confindustria, il centro studi, ha stimato in 600.000 i posti di lavoro che potrebbero essere persi in Italia nel 2009, mentre ieri l'Unione Europea ha previsto, in assenza di interventi massicci e immediati, 6 milioni di nuovi disoccupati in Europa nel 2009. Sempre secondo Bruxelles, il tasso di disoccupazione italiano raggiungerà l'8,2% contro il 6% attuale. In Germania si arriverà al 7,7%, in Gran Bretagna all'8,2%, in Francia al 9,8%, in Spagna al 16%. Mentre in America questo è già un dato, perché l'America ha già toccato un record con l'8,1% di disoccupazione, che è il massimo da 25 anni. Professor Tito Boeri, docente di economia del lavoro alla Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Allora, le proposte, perché insomma qui il dato di oggi, senza creare allarmismi, ma insomma un più 46% a gennaio e febbraio rispetto a gennaio e febbraio del 2008 non è poca cosa, ed è il trasferimento della crisi da finanziaria in economica. Si è molto discusso del sussidio di disoccupazione a livello politico, e vi anticipo che Verdi 24 la prossima settimana compirà un viaggio proprio nelle varie formule degli altri paesi, ma si è anche detto che da noi comunque abbiamo la cassa integrazione e che funziona bene. Prima domanda, si può arrivare a una proposta, che se ho ben capito voi avanzate sul sito La Voce, per una forma di sussidio che però non sia così costosa e anche un po' distorcente come il semplice assegno di disoccupazione? Sì, certamente, si tratta di adottare un sistema di sussidi di disoccupazione come quello che esiste in altri paesi europei, cioè che non discrimini a seconda della dimensione dell'impresa o della tipologia di contratto. È un sussidio che deve essere ad importi decrescenti nel corso del tempo per incoraggiare la persona che lo percepisce a cercare un impiego e comunque deve dare una copertura per una durata sufficiente, insomma, alla luce della situazione del mercato del lavoro italiano. Ecco, il sussidio è un ammortizzatore sociale, attutisce i costi sociali della disoccupazione e deve dare alla persona il tempo di poter concentrare proprio le proprie risorse, la propria attenzione alla ricerca di un impiego alternativo anziché a dover adattare rapidamente i propri tenori di vita, vendere la macchina, cambiare casa per far fronte ad un'emergenza come quella che si ha quando non si è coperti dai sussidi di disoccupazione degli ammortizzatori sociali. Sì, noi stiamo caricando proprio in questi minuti sul sito delle stime che il professor Garibaldi ed io abbiamo proprio elaborato sui costi di un sussidio proprio alla europea applicata in Italia, anche perché in questi giorni si sentono le cifre più diverse sui costi di questa operazione, quindi abbiamo voluto mettere i puntini sulle i. Mi scusi professor Boeri, andiamo però sulle cifre, diamo i numeri in senso positivo. Il governo ha detto attenzione alla riforma, se dobbiamo dare il sussidio di disoccupazione ci viene a costare un punto e mezzo di PIL, cioè 22 miliardi a Spagna, 23 sì, miliardi, quasi 25 miliardi, quasi 25 sì. miliardi, che è una cifra oggettivamente molto alta. Io aggiungo che già altri nostri ospiti, penso al ministro Sacconi, la settimana scorsa facevano notare come c'è un effetto di distorsione, cioè se tu ricevi il sussidio, intanto l'impresa in questo modo potrebbe essere più invogliata a licenziarti, mentre con la cassa integrazione sei ancora un dipendente, semplicemente in cassa integrazione. Dall'altro esci dal mercato del lavoro e hai meno stimoli a rientrare, cioè si può creare un effetto per cui l'impresa è un po' più, mettiamola così, stimolata a licenziare invece che a trovare altre formule e tu resti fuori dal mercato del lavoro. Vorrei capire cosa ne pensa sul fronte costi e anche effetto di distorsione. Allora, partiamo dai costi. Il sussidio, noi pensiamo ad un sussidio che dia il 65% della retribuzione precedente e poi nei primi sei mesi, poi 55% dal sesto mese al diciottesimo mese e poi 500 euro dal diciottesimo al ventiquattresimo mese, quindi vuol dire che è un sussidio che dura due anni, da una copertura fino a due anni, quindi molto di più dei sussidi ordinari di disoccupazione che attualmente danno cinque mesi, quelli requisiti ridotti addirittura danno tre mesi e gli importi sono tra i 15 e i 20 euro al giorno, quindi il nostro è sicuramente più generoso. La cassa integrazione rimarrebbe in vigore, quindi se l'impresa ritiene di poter tenere il lavoratore alle dipendenze e non utilizzare il sussidio, può benissimo usare gli strumenti attualmente esistenti come la cassa integrazione, quindi questo si aggiunge alla cassa integrazione e non sostituisce la cassa integrazione, sostituirebbe invece tutti gli altri strumenti, ne esistono davvero tantissimi in Italia oggi esistenti, sono differenziati per settore, dimensione di impresa e tipologia di contratto. Il costo di questa operazione sarebbe di 15,5 miliardi di euro, però questi sono i costi lordi, tenendo conto che si risparmierebbe sui sussidi ordinari di disoccupazione, indennità di mobilità, eccetera, i costi netti sarebbero di 8 miliardi. Tra l'altro questi verrebbero coperti da un'aliquota contributiva del 3%, che è più o meno quanto le imprese pagano già per sussidi di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità, quindi sarebbe finanziabile con un piccolo aggravio della pressione contributiva sul lavoro e senza alcun contributo alla fiscalità generale. Nella messa a regime di questo strumento, siccome ci sono dei lavoratori che sin qui non hanno pagati i contributi, loro datori di lavoro hanno pagato i contributi, invece ci sarebbero dei costi di transizione di 4 miliardi, comunque molto meno dei 9 miliardi che il governo dice di aver reperito e che vuole utilizzare invece per un intervento del tutto discrezionale come sono i cosiddetti interventi in deroga sulla cassa integrazione. Ecco, sì, c'è un altro aspetto, professor Boeri, a cui vorrei che lei rispondesse dopo le informazioni in merito alla pubblicità, e cioè il problema in questo momento, quello che vediamo, non è tanto per il lavoratore dipendente, perché lì la cassa integrazione è uno strumento che anche all'estero spesso ci invidiano, come funzionamento e anche come automatismo, ma sono tutti contratti a tempo, gli interinali, i Coco Pro, chiamateli come volete, e anche le piccole imprese che spesso non riescono ad arrivare alla cassa integrazione. La domanda che ho per lei, quindi, dopo il meteo e la pubblicità, è se non sia da preferirsi, anche e soprattutto per questi tipi di figure professionali, il cosiddetto contratto di solidarietà, cioè molte aziende stanno riducendo l'orario di lavoro ma tutti restano al lavoro, perché anche la cassa integrazione porta uno a uscire dal luogo fisico di lavoro, e tutti restano al lavoro con un impatto anche minore sul fronte dei consumi interni, perché un conto è lavorare 6 ore e un conto è stare a casa in cassa integrazione. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Poi commenteremo anche questa borsa che ha chiuso ai massimi, quasi il 7% di rialzo per l'S&P MIB, il 6% per il MIBTEL, con titoli come Intesa che guadagnano il 15,7%, Unicredito il 12%. Il Banco Popolare, la prima banca a richiedere l'aiuto dei Tremonti Bond, non cresce così tanto nonostante l'avvio. Infatti il Banco Popolare guadagna il 2,7%. Ci arriviamo tra un attimo. Vorrei concludere il ragionamento con il professor Tito Boeri alla luce dei dati diffusi oggi sui disoccupati, su quante persone in Italia hanno perso lavoro nei primi 2 mesi dell'anno, il 43% in più rispetto all'anno prima, cioè 370.000, sono 117.000 in più. Si diceva degli strumenti, professor Boeri, adesso le faccio ascoltare anche cosa ha detto il ministro Tremonti da Bruxelles, però mi fanno notare gli ascoltatori che prima che rispondere alla seconda domanda mancherebbe una parte della mia prima domanda, cioè lei è d'accordo o no che un sussidio possa avere un effetto di distorsione sul mercato del lavoro, oltre che di tampone? Sì, stavo rispondendo a questa e anche all'altra domanda precedente. Tutti i sussidi di disoccupazione hanno anche degli effetti disincentivanti, questo in tutto il mondo, e per questo che dovrebbero avere degli ammontari decrescenti nel tempo e dovrebbero accompagnarsi dalle politiche di attivazione. Questa però non è una ragione per non dare il sussidio e per non aiutare chi perde il posto di lavoro, si tratta semplicemente appunto di avere questi accorgimenti che ci sono in tutto il mondo in cui questi strumenti esistono. Le assicuro peraltro che i nostri ammortizzatori sociali non sono invidiati da nessuno, no, perché noi abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali che copre un disoccupato su 5, in cui i costi, diciamo le tasse che vengono pagate, comunque elevate da lavoratori e datori di lavoro, sono circa il 3% della retribuzione, non servono a coprire la spesa, per cui bisogna sempre intervenire con la fiscalità generale, e poi ripeto, lasciano fuori tantissime persone, creando anche delle asimmetrie di trattamento che sono del tutto inspiegabili. Perché un lavoratore di una grande impresa deve essere trattato meglio di un lavoratore di una piccola impresa? Ecco, su questo volevo arrivare. Di turnover molto più alti, che sono tutte cose che non hanno nessuna ragione, è solo una questione di potere contrattuale. E poi perché il governo, la regione, i sindacati devono decidere se io sono aiutato o no? In tutti gli altri paesi è un diritto soggettivo, chi perde il lavoro può fare domanda, e questa domanda, l'ambito delle regole che sono uguali per tutti, deve essere presa in considerazione come tale, non deve sottostare ad alcuna autorizzazione del governo o della regione o della politica in generale. Quindi sicuramente la nostra proposta vuole migliorare e porre fine a questo stato di cose, porterebbe il tasso di copertura quindi la percentuale di disoccupati coperti al 70%, non abolirebbe la cassa integrazione sia ordinaria che quella straordinaria nei patti di solidarietà, adesso non comunque enfatizziamoli troppo, i patti di solidarietà sono una cosa piccolissima, coinvolgono un numero di lavoratori minimo, io mi auguro che vengano usati di più, ma purtroppo i dati di cui stiamo parlando ci dicono che invece molti lavoratori perdono il lavoro, e la ragione per cui perdono il lavoro è che con i nuovi contratti basta semplicemente non rinnovare il contratto alla scadenza, il lavoratore al datore di lavoro questo non costa nulla e questi rimangono senza lavoro. Queste persone oggi non sono coperte, quindi bisogna fare qualcosa per loro. Allora, preciso la mia affermazione, io mi riferivo solo alla cassa integrazione, che è un buon strumento, non il nostro sistema degli ammortizzatori sociali, perché obiettivamente abbiamo letto anche in queste settimane di paesi che sono venuti addirittura dall'est Europa a studiare come funziona la nostra cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria. Noi abbiamo su questo una lunga esperienza, per cui come meccanismo è un meccanismo anche che funziona bene. È verissimo quello che lei ricorda, che però purtroppo la cassa integrazione funziona bene solo per chi ce l'ha, per cui una platea molto ristretta rispetto a quella complessiva dei lavoratori, e privilegiando in maniera quasi totale le grandi imprese rispetto alle piccole e piccolissime. Però ascoltiamo il ministro Tremonti, che non ha voluto commentare oggi a Bruxelles i dati dell'INPS su 370.000 nuove domande per l'indennità di disoccupazione, ma ha definito più che adeguati i soldi stanziati dal governo come plafond per gli ammortizzatori sociali, e anche lui ritiene che, insomma, che il modello italiano sia un modello, diciamo, che ha sviluppato qualche virtuosismo. Ascoltiamo. Il governo italiano ha incrementato i fondi per queste destinazioni in ragione di 9 miliardi di euro in pochi mesi, va bene? Dalla finanziaria all'accordo che è venuto fuori l'altro giorno con le regioni e sarà definito in Europa. Noi riteniamo che 9 miliardi in più messi in due o tre mesi sia una cifra molto rilevante, assumiamo sufficiente, finora non c'è stato ancora bisogno di utilizzo. Però 9 miliardi sono la cifra in più, la cifra che noi riteniamo, come dire, seria, responsabile. 9 miliardi sono un importo non marginale. L'incremento a parità di causale d'impiego, l'incremento sullo stanziamento è stato fortissimo. A oggi non c'è stata ancora necessità di attingere a questa riserva. Dentro il governo si sta consolidando l'idea, l'opinione che l'apparato di strumenti costruito in Italia con un consenso generale nel corso dei decenni sia un apparato razionale. Cioè tutto questo apparato di strumenti è stato costruito, ripeto, in Italia in alcuni decenni, e di politiche di consenso generale, di consenso sociale. Non è che uno ha inventato la riforma degli ammortizzatori, gli altri hanno votato contro, hanno fatto un referendum, non è andato per colpi di maggioranza e opposizione, si è costruito in 20 anni almeno, e riteniamo che sia un buon apparato. E quindi, secondo il ministro Tremonti, anche il fatto che potremmo dire si sia arrivati a questi ammortizzatori sociali attraverso accordi anche bipartisan, veniamo da decenni di crisi anche pesanti, penso agli anni 70, ne fa complessivamente un buon sistema. Professor Boeri, per concludere, ho capito la vostra proposta, poi la leggeremo sul sito La Voce, di un assegno indennità di disoccupazione che va via via a decrescere, per cui a, diciamo, modulare, ecco, non rigido. Però, guardando gli altri paesi, è vero che la nostra cassa integrazione copre purtroppo solo alcune fasce di lavoratori, ma non so, in Germania il sussidio, che arriva anche grazie all'obbligatorietà, come nella maggior parte dei paesi, di un assegno, di un'assicurazione obbligatoria, però copre tra il 67% per chi ha dei figli e il 60% della retribuzione. In Francia siamo tra il 40% e il 45%, si arriva forse al 57%. In Gran Bretagna è diverso secondo le fasce d'età dei carichi familiari, in Spagna si arriva tra il 70% e il 60%. Ora, la nostra cassa integrazione, quando è applicata, è applicabile, copre il 70%, cioè non è una cattiva cosa. La cassa integrazione copre soltanto circa 3 milioni di lavoratori sui 22 che lavorano in Italia, e noi abbiamo la stragrande maggioranza delle persone che perdono il lavoro e che non sono coperte da alcuno strumento. Questo è il fatto grave del nostro paese. Di più, la cassa integrazione straordinaria in realtà ha comunque dei massimali, per cui non è poi così generosa. Nonostante tutto questo, nonostante che siano così pochi disoccupati oggi coperti, dobbiamo sempre intervenire dalla fiscalità generale, vale a dire contribuire generico deve metterci di tasca sua, cosa che non avviene in altri paesi perché sono i lavoratori e i datori di lavoro che pagano, certo, i sussidi come uno strumento assicurativo. Noto una sola cosa di quelle dette dal ministro Tremonti, molto importante, cioè questi 9 miliardi, bene, se ci sono davvero questi 9 miliardi sono più che sufficienti per fare da oggi la riforma che noi proponiamo senza dover chiedere un euro in più alle imprese e ai lavoratori. Possono farla domani, basta che vogliano, e avrebbero i risultati di dare certezze, un po' più di tranquillità agli italiani. In questo momento penso che sia un fatto molto importante, perché c'è un pessimismo molto forte in giro. Assicurare a tutti quelli che rischiano di perdere il lavoro che verranno aiutati, non verranno lasciati da soli, penso che sia un messaggio molto importante da dare agli italiani. Sì, e tra l'altro appunto si applicherebbe anche ai lavoratori interinali, ai lavoratori Cocopro, insomma, chi non è e di piccole aziende. Vedremo se la proposta verrà raccolta. Grazie intanto a Tito Boeri, all'economista Tito Boeri. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi la borsa con una lunga pagina su questa giornata euforica. C'è chi scrive oggi il gallo, domani il cappone, può essere. Intanto abbiamo celebrato con il gallo questa prima seduta dopo intere giornate negative, più 7% S&P MIB nel finale. Di nuovo in diretta, allora la borsa oggi ha festeggiato tutto praticamente, nulla è rimasto, sì, Snam Rete Gas meno 1,5, Impregilo meno 1,2, A2A meno 1%, però oltre ai bancari, di cui parleremo ampiamente, la prima banca è il Banco Popolare ad aver utilizzato i Tremonti Bond, poi c'è Citigroup che ha visto per la prima volta dal terzo trimestre 2007 dati migliori delle attese. Ma al di là dei bancari, quindi Intesa più 15,7, UbiBanca più 12,20, Unicredito più 12, Alleanza più 9, Popolare di Milano più 6,86, Generali più 5,7, è cresciuta tantissimo anche Prismian più 15, Luxottica più 9,70, Mondadori più 9,3, Fiat più 8,8, Eni più 8,4, ST Microelectronics più 7, Enel più 5, Telecom pure, Mediaset più 4,80, Atlante più 4,7, insomma è salito tutto. Milano ha fatto un 7% in più sull'S&P MIB, Parigi e le altre borse invece per quello che riguarda l'Europa hanno avuto rialzi simili ma leggermente inferiori, Parigi più 5,7, Francoforte più 5,3, Londra più 4,9, l'America è fortissima, più 4% sul Dow Jones, più 4,6 per la precisione, Nasdaq più 5,90, Standard & Poor's più 5,45%. Allora iniziamo questa lunga pagina di borsa con Paolo Paronetto, Radio Colli Sole 24 Ore. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque Paolo, è chiaro che nel momento in cui Wall Street apre e guadagna il 4% trascina tutte le borse europee, come mai così forti comunque oggi le banche già prima dell'apertura di Wall Street? Certo, è da fin dalla mattina che le banche guidano i listini in tutta Europa, infatti la tendenza è generale e il sottoindice continentale delle banche oggi ha guadagnato oltre il 12%, mentre quello delle assicurazioni oltre il 10%. E ovviamente si tratta di un rimbalzo dopo i pesanti cali che abbiamo raccontato la settimana scorsa, e poi oggi a innescare gli acquisti sul settore è stata proprio la notizia che Citigroup ha chiuso i primi due mesi dell'anno in utile, quindi sì, dando un'indicazione, una delle prime indicazioni di una possibile uscita, anche se ancora presto per dirlo ovviamente, dalla fase peggiore della crisi. La notizia era contenuta in un memo inviato dall'amministratore delegato Pandita ai vertici del gruppo, è stato diffuso dalle agenzie e questo ovviamente ha dato un po' di respiro al comparto, su cui gli investitori sono tornati approfittando ovviamente anche delle quotazioni molto basse, quindi dei prezzi contenuti. Sì, comunque Citigroup ha dato là, perché insomma vedere che la banca, quella che viene chiamata, lo ricordo, lo zombie di Wall Street, tanto è messa male, tanto è sull'orlo del fallimento, tanto ha avuto bisogno 45 miliardi direttamente e altri 200 miliardi di garanzie, di soldi dello Stato, che nei primi due mesi i conti vanno bene, beh, non se lo aspettava nessuno. Dopodiché, Paolo, non capisco, me lo dico con massimo rispetto, perché salga anche Fiat, perché salga anche Luxottica, perché salga anche ST Microelectronics a questi livelli, cioè del 7 o 9%. Non ho letto cose nuove. Si tratta, secondo quanto dicono gli operatori, proprio di un movimento generale che nel momento in cui si ritrova un po' di fiducia sui finanziari, che è il settore più bersagliato ormai da mesi, allora l'ottimismo è tornato su tutto il listino e anche dei fondi, anche gli investitori che avevano parcheggiato liquidità in investimenti più sicuri tornano sulle azioni, allora tutti i comparti colpiti dalle vendite di recente ne beneficiano in un movimento generale. Allora, avete ragione, Banco Popolare non ha utilizzato, ha richiesto 1 miliardo e 600 milioni di Tremonti Bond, avete ragione, non ha ancora utilizzato, ma ne parleremo tra qualche minuto. In realtà poi qualche notizia poi specifica c'è, per esempio il gruppo Safilo, che produce occhiali, più 24,3%, ed immagino che questo abbia trascinato anche Luxottica. Qui c'è attesa una notizia specifica e il balzo del gruppo che per lunga parte della giornata non era riuscito a fare prezzo per eccesso di rialzo viene dopo che l'azionista di riferimento Only3T ha confermato di avere in corso contatti per un possibile ingresso di partner nel capitale. La notizia era stata anticipata dal Sole 24 Ore, secondo cui alcuni fondi di private equity, tra cui PAI, CVC e Bain Capital, sarebbero interessati all'ingresso nel capitale del gruppo e ovviamente le quotazioni ne hanno beneficiato con un rialzo del 24% e sulla scia di Safilo è salita molto anche Luxottica con un più 9,7%, Luxottica anche aiutata da un report positivo di Merrill Lynch che ha migliorato a buy, cioè comprare, il giudizio sul titolo. Poi anche gli altri titoli, ma insomma Tiscali, anche qui, più 47% dopo aver avuto difficoltà tutto il giorno a far prezzo per eccesso di rialzo. Ora, ieri perde il 40%, oggi guadagna il 40%, aiutaci. Certo, questo è proprio un rimbalzo tecnico, evidentemente le grandissime vendite di ieri avevano dimezzato la capitalizzazione della società, evidentemente oggi altri investitori hanno deciso che i prezzi comunque offrivano delle buone opportunità di acquisto nella consapevolezza che probabilmente la società, secondo chi ha comprato, riuscirà a raggiungere un accordo con le banche che permettano il recupero di redditività e quindi oggi gli investitori sono tornati con un guadagno oggi del 47,53%, i titoli sono tornati a 0,22 euro. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Stavamo commentando questa ottima giornata di borsa, nessuno si fa illusioni, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, i listini da inizio anno hanno perso ampiamente più di un 20%, l'anno scorso hanno perso un 40%, titoli come i bancari che oggi sono molto saliti sono comunque nell'ultimo anno sotto di un 60-70-80%, per cui voglio dire non è che si stia festeggiando qualcosa. Il gallo lo abbiamo usato perché dopo settimane intere di gufo, di voliere, di gufi, ogni tanto sentire un gallo non fa male. Intesa più 15,70 per chi si fosse permesso in collegamento, più 7% complessivamente l'indice S&P MIB, più 6% il MIBTEL. Andiamo oltre che sui bancari, abbiamo detto l'effetto Citigroup, ma non solo, su altri titoli. Prismian più 14,3%. Prismian non è stato segnalato nulla di particolare, come diciamo spesso su questo titolo la struttura dell'azionariato in cui sono presenti molti fondi lo rende soggetto a oscillazioni tecniche e soprattutto di quei fondi che replicano la composizione dei panieri, dato che oggi è stata una giornata di rialzo generale, Prismian si è allineata e si è messa in luce con una delle migliori prestazioni arrivando di nuovo a un passo dai 7 euro per azione. Sempre sui titoli, Pirelli oggi presentava i conti, in realtà vista la giornata un po' deludente, più 0,5%, se ricordiamo di nuovo anche Fiat, perché lo chiedono anche gli ascoltatori. Sì, per quanto riguarda Pirelli in effetti è rimasto un po' al palo vista la giornata di rialzi, il titolo ha fatto più 0,54%, la società ha comunicato di aver chiuso il 2008 con una perdita netta di 412 milioni contro gli utili, un utile da 323 nel 2007, sul risultato pesano oneri di ristrutturazione per 144 milioni, oltre a svalutazioni di asset immobiliari per 136 e svalutazioni di partecipazioni per 263 che sono milioni, che sono in gran parte riconducibili alla quota in Telecom Italia. Per quanto riguarda invece Fiat, oggi si è trattato anche qui di una giornata di recupero dopo le recenti perdite, tra l'altro favorita da un'intervista dell'amministratore delegato Sergio Marchionne ad Automotive News. Marchionne ha confermato il suo impegno per far sì che la divisione auto nel 2009 sia inutile, nonostante la difficile situazione di mercato. Marchionne ha confermato il suo impegno e ha detto di rifiutare persino l'idea che le attività dell'auto possano perdere i soldi. Per questo Marchionne ha sottolineato di stare rivedendo tutti i budget su base quotidiana quotidiana, l'impegno di Marchionne è stato premiato dal mercato e tra l'altro la performance di Fiat segnaliamo che ha trainato alla rialzo anche le quotazioni dell'azionista di riferimento Exor, cioè l'ex IFI, l'IFI, che sono salite oggi del 9,81% grazie anche al giudizio positivo degli analisti di UBS. Allora, chi ci chiede invece di altri titoli, ne abbiamo già parlato e mi riferisco a Tiscali, ho ammesso tutta la mia ignoranza e incapacità di comprendere come un titolo possa fare un meno 40 un giorno e un più 40 il giorno dopo. Abbiamo già detto di Luxottica, dove invece c'è l'effetto Safilo e quello è già più comprensibile, comunque esiste già una logica più forte. E di Prysmian appunto soprassediamo, su Fiat per carità le dichiarazioni di Marchionne sono importantissime, però da solo un più mi sembra che giustifichino un più 8,8%, forse troppo ribassista prima mercato e troppo rialzista adesso, potremmo dire a 4,15 euro, comunque riconquiste 4 euro per azione Fiat. Eni, abbiamo detto, del petrolio a 48 dollari più 13,6%. L'ultimo titolo che ti farei commentare leggermente negativo oggi è Impregilo, perché qualche realizzo l'abbiamo visto in pregiro perdere l'1,25%. Certo, in questo caso si tratta proprio di realizzi, dato che, come commentavamo la settimana scorsa, in pregiro è stato uno dei pochi titoli a resistere alle vendite nelle ultime sedute sull'attesa dello sblocco dei fondi per la realizzazione delle grandi opere ad esempio del ponte sullo stretto di Messina, e quindi dopo aver mantenuto le quotazioni di recente, oggi in una giornata in cui tutti gli altri comparti sono andati bene, gli investitori sono passati a realizzi sui titoli che avevano ottenuto di recente, vendendo i titoli in pregiro in particolare, che hanno perso l'1,25%, così come anche i titoli Snam, che anche essi, essendo tra i settori più difensivi, avevano ottenuto botta nelle ultime sedute. Hanno ragione gli ascoltatori che dicono, però quando la borsa cala tanto dite sempre quanto miliardi di capitalizzazione si sono bruciati, quando cresce tanto non lo dite mai. Faccio un appello all'ANSA e alle agenzie che tirino fuori il dato, perché io non posso farlo mentre sono in diretta, però è vero, così come si è detto negli ultimi cali, crolli, 200 miliardi bruciati in borsa in un solo giorno, sarebbe ora interessante sapere quanti ne hanno creati di capitalizzazione, 100, 120... immagino, vado a spanne, ecco, giusto come memoria, ed è probabile, come scrivono alcuni, che domani vi sarà qualche realizzo comunque e quindi qualche venta. Grazie per oggi e per ora a Paolo Paronetto di Radio Coro di Sole 24 Ore. Se Citigroup ha innescato gli acquisti su tutte le banche a livello europeo, a livello mondiale, a casa nostra l'altra vicenda bancaria si chiama Banco Popolare e l'ha controllata Italease. Il Banco Popolare è la prima banca in Italia a fare ufficialmente richiesta di poter utilizzare i cosiddetti Tremonti Bond. Che lo ricordiamo, sono obbligazioni, quindi richiesta di prestito da parte delle banche, emessa dalle banche, e che vengono sottoscritte dal Tesoro, quindi nessuno li può richiedere se non le banche. Alcuni di voi dicono, ma anche il privato può avere i Tremonti Bond, sì. Magari, ammesso che un tasso del 7,5-8,5% sia vantaggioso. Comunque le banche possono chiedere al governo un prestito, lo fanno emettendo un'obbligazione, e il governo la sottoscrive, quindi l'acquista, in cambio vuole il Tesoro un rendimento tra il 7,5-8,5%, che è tanto, ma è la soglia chiesta anche da Bruxelles perché non diventassero aiuti di Stato. Non c'è nessuna penale per il rimborso anticipato e complessivamente a disposizione ci sono 10/12 miliardi di euro. Il Banco Popolare, dopo un avvio molto molto forte, in realtà ha chiuso con un più 2,77%. Comunque ne parliamo con Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora, il Banco Popolare, che per chi se lo fosse dimenticato, nasce nella sua forma definitiva a luglio del 2007 con la fusione tra la Popolare di Verona e Novara e la Popolare Italiana ex di Fiorani, ex Popolare Lodi, quindi è stato per molto tempo il quarto gruppo bancario nel nostro paese, il primo a livello di banche popolari, capitalizzava 1,2 miliardi, 2200 sportelli, 3 milioni di clienti, ha il 10% di tutto il mercato del nord Italia e poi controlla anche il 30% di questa maledetta Italease, che era una banca operativa nel settore del leasing e quindi dei prestiti agevolati, che è crollata e schiacciata sotto un pacco di robaccia che aveva sottoscritto. Ma andiamo con ordine. Il Banco Popolare è la prima banca che chiede e fa ricorso ai Tremonti Bond. Che effetto, ma anche che valore avrà questa scelta per le banche future? Alessandro. Ma, diciamo che l'effetto per quanto riguarda il Banco Popolare è quello di avere una ricapitalizzazione di livello elevato. Tu hai ricordato che il Banco Popolare capitalizza in borsa 1,2 miliardi, 1,3 miliardi circa. La richiesta che è arrivata da Verona sui Tremonti Bond è di 1,450 miliardi, quindi si tratta di un aumento di capitale quasi pari alla capitalizzazione in borsa attuale, per cui si tratta di un intervento notevole. Questo serve da una parte a sistemare definitivamente la questione Italis, molto probabilmente, parliamo col condizionale perché si tratta di società quotate, anche attraverso il delisting, cioè un'OPA residuale sul capitale flottante attuale di Italis, e poi alla successiva spartizione con le altre banche popolari azioniste, destinato poi a risistemare questo che era un po' un bubbone che preoccupava la Banca d'Italia non poco, lo abbiamo scritto varie volte. L'origine del problema Italis lo sappiamo, l'abbiamo scritto tante volte, riguarda la mala gestione che ha provocato una serie di inchieste giudiziarie nella gestione Faenza di Banca Italis. Ovviamente poi dopo a questo è sopraggiunta la crisi finanziaria, il leasing come tutte le altre attività finanziarie non è che brilli particolarmente. E quindi è molto probabile che Italis nelle prossime 2 settimane annunci una chiusura bilancio 2008 in grave perdita, il che avrebbe comportato una ricapitalizzazione della società. Il Banco Popolare, in quanto primo azionista, si farà carico di ripianare le perdite, e per sostenere questo impegno è necessaria una ricapitalizzazione che in parte il banco attingerà proprio dai Tremonti Bond. Ecco, quindi già capiamo qualcosa, perché al di là dei casi singoli per cui il Banco Popolare ha i suoi problemi con Banca Italis, quando Graziani, lo dico chi scrive, dice delisting, vuol dire che il titolo viene levato dal listino e delistato con un inglesismo, e questo avviene comprando tutte le azioni ancora circolanti, quindi quella che si chiama, come diceva Alessandro Graziani, OPA residuale, un'offerta pubblica su quello che resta delle azioni di questo titolo. E a quel punto, una volta che tutte le azioni ce le hai tu, lo levi dal listino. Questo, diciamo, come percorso. Ma al di là di Italis, dopo le informazioni per chi è in viaggio, Alessandro, vorrei capire appunto questo strumento, perché tu ricordavi giustamente, sembrano pochi 1,6 miliardi rispetto a certe perdite che abbiamo visto in questi mesi, ma in realtà nel caso del Banco Popolare, quindi della terza, quarta banca del paese, è 1,6 miliardi, ben più della capitalizzazione attuale, quindi è come se uno chiedesse quasi il doppio, anzi più del doppio di quanto non sia la sua capitalizzazione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Alessandro Graziani, al di là del caso specifico del Banco Popolare e quindi vicenda Italis, che ormai insomma c'ha 7 miliardi e 900 milioni di debiti verso le banche e ne capitalizza 185 milioni, ma veniamo ai Tremonti Bond, questi prestiti fatti dal governo, perché da un lato l'interesse è alto, dal 7,5% all'8,5%, quello che costano le banche, e c'è chi chiede ma perché a questo punto non fare un aumento di capitale sul mercato senza ricorrere a un prestito così caro. Dall'altro però lo stesso ministro Tremonti ha detto con questi 10-12 miliardi si genererà un effetto di prestiti e quindi un effetto leva, in questo caso positiva, pari a 150, quasi una leva 1 a 10, c'è chi scrive addirittura 1 a 15. Se ci spieghi anche questo secondo aspetto, quindi perché accettare bond, obbligazioni così care con il rischio che vengano poi girate la clientela, e che cosa vuol dire che però l'effetto è su una 150, forse anche di più, miliardi di euro di prestiti possibili. In effetti il cosiddetti Tremonti Bond, noi li chiamiamo così, ma è una definizione un po' impropria, di fatto si tratta di obbligazioni convertibili in capitale, e quindi trattandosi di strumenti di capitale, anche se il costo è del 7,5-8,5% al massimo, si tratta di strumenti che a tutti gli effetti vengono conteggiati dalla vigilanza della Banca d'Italia come miglioramento del patrimonio delle banche. E quindi per ogni euro di patrimonio in più si considera un effetto leva poi sugli impieghi creditizi di 10-15 volte come minimo. Ricordiamo che fino a un anno, due anni fa, le banche avevano un effetto leva anche di 50 volte nei casi 40, di degenerazione. Certo. In questo caso ovviamente, cioè, tu dicevi qual era, perché non le banche non fanno ricorso in alternativa a un aumento di capitale sul mercato. Il problema è che purtroppo, come vediamo da mesi, gli aumenti di capitale sul mercato non vanno a buon fine e non ci sono i capitali, è difficile riuscire ad ottenerli. Allora, è importantissimo quest'ultimo passaggio, perché oggi è stato il Banco Popolare, ma se tanto mi dà tanto, Alessandro, poi avrò anche questo aspetto, altre banche si metteranno in fila. Allora, le banche da sempre lavorano con la leva. La leva vuol dire che per un euro che tu hai in cassa, nei presti hai per 15, cioè sei esposto per 15. Attenzione, un rapporto leva 1 a 15, 1 a 20 non è assurdo, anche 1 a 12. Quello che era assurdo era il rapporto 1 a 40, 1 a 50, 1 a 70, che grazie a tutti i derivati e ai prodotti strutturati le banche anche in Italia avevano, cioè per un euro in cassa erano esposte per 70, detto in maniera un po' brutale, e quello era diciamo patologico, e così do una risposta. Secondo aspetto che sottolineava Alessandro Graziani, che a mio avviso è molto importante, sono obbligazioni convertibili, per cui non è solo un prestito e la banca si indebita e basta. Se le cose vanno male, lo Stato converte, il governo converte questo prestito in azioni, quindi entra nel capitale. Nel caso, per esempio, del Banco Popolare, ammettendo e non concedendo chiaramente che il Banco Popolare non sia in grado di, non so, di ripagare metà, diciamo, del prestito, no? Delle obbligazioni, quindi su 1.600.000.000, vorrebbe dire, come estrema ratio, Alessandro, che lo Stato si comprerebbe una quota intorno al 60% del capitale? Questo è proprio l'estrema ratio. Sì, stiamo ragionando per far capire. Stiamo parlando anche di un orizzonte temporale di 4 anni, perché sì, appunto, i Tremonti Bond hanno 4 anni di scadenza. L'idea da parte delle banche è che questa fase di emergenza si chiuda in tempi relativamente più rapidi e che quindi l'obiettivo da parte di tutte le banche che chiederanno i Tremonti Bond non sarà solo il Banco Popolare, perché nei prossimi giorni vedremo che tutte le prime 5-6 banche italiane li chiederanno, è quello poi di rimborsare questi denari che arrivano in cassa attraverso la gestione della liquidità, certo, dei prossimi anni. L'idea è quella che non diventi capitale, ma che venga utilizzato come prestito. Naturalmente, se le cose dovessero peggiorare, è evidente che, però, in questo momento, chiaro, è imprevedibile. No, ma la cosa importante, come tu ricordavi, però, è che essendoci la possibilità che questi prestiti diventino invece capitale, cioè, la Banca d'Italia e gli organismi di vigilanza non considerano questo un aumento puro e semplice del tuo indebitamento, come se io chiedessi a te di prestarmi 1.600.000 euro, che chiaramente hai, ma lo considerano come l'ingresso, se posso forzare il concetto, di un nuovo socio. Cioè, o questi soldi li ridai, allora vuol dire che stai bene, o se anche tu non potessi ridarli avresti lo Stato come azionista. Ecco perché questo permette poi di prestare molto di più, quasi 15 volte di più, Alessandro. No, questo è un po' il concetto, è tutto giusto, a parte il fatto che abbia più di 1,6 milioni di euro, perché sono solo 1,5. Hai ragione. Esatto. Ultima domanda, tu stavi già anticipando il fatto che ci sarà la fila, quindi tu aspetti che Intesa San Paolo, Unicredito e Monte dei Paschi almeno facciano ricorso ai Tremonti Bond. Sì, questa è un po' l'indicazione che abbiamo ricevuto. Il Banco Popolare aveva, diciamo, anche una situazione più urgente, sì, di emergenza, che era legata alla sistemazione del caso Italis da farsi entro i prossimi giorni. La previsione è che nei consigli di bilancio della settimana prossima sia Unicredito che Intesa San Paolo che Montepaschi, in contemporanea ai risultati di bilancio, annuncino anche la richiesta di Tremonti Bond, di questo prestito convertibile in azioni, come estrema razzi, lo ripetiamo, fatto dal Tesoro. L'ultima domanda che ho per te riguarda i vincoli, perché abbiamo detto già che nel caso che la banca riesca a ripagare il Tesoro prima del tempo non c'è nessuna penale, a differenza di quanto non capita delle volte nei nostri rapporti con le banche. Però ci sono dei vincoli sulla governance, cioè avere questi soldi dallo Stato, cioè da noi cittadini, non è solo un problema di costi per le banche, le porta anche a dover rispettare alcune, diciamo, regole, mettiamola così. Sì, da un punto di vista dell'interesse popolare ci sono alcune regole che riguardano ad esempio lo stipendio dei manager, che deve adeguarsi ad alcuni parametri che vengono stabiliti e fissati, per cui i banchieri non possono guadagnare più di tanto, ma la parte principale, che poi è un po' la base del progetto dei Tremonti Bond, riguarda il controllo del credito alle piccole e medie imprese, per cui le banche che incassano i Tremonti Bond devono finanziare le piccole e medie imprese nei prossimi anni, e questo credito che viene concesso sarà poi controllato da un organismo coordinato dalla prefettura, delle varie sedi in cui operano le banche, e questo è oggetto ancora di discussione sulle modalità, diciamo, operative di un accordo quadro che stanno cercando di definire il Ministero dell'Economia con l'ABI, perché ovviamente questo comporta una serie di vincoli per le banche che non sono poi così semplici da definire. Ecco, però teoricamente non possono semplicemente prendere questo prestito e, non so, sistemare i conti interni, devono garantire, poi vedremo come si riuscirà a monitorare, questa è la parte più delicata e difficile, devono garantire che i rubinetti verso le imprese, verso i clienti restino aperti, cioè non puoi con questi soldi in via di principio coprire i buchi, i puffi, le scelte sbagliate che hai fatto in questi vedi tecnici che la prova puffo ridono, le scelte sbagliate che hai fatto in questi anni. Grazie ad Alessandro Graziani. E da Sebastiano Barisoni un augurio a voi tutti in ascolto di una buona serata. Domani Gallo Gufo vedremo, per oggi è andato in onda il Gallo. Ci risentiamo dalle 17 in poi.